E allora noi torniamo in voce, come sentite in sottofondo, e siamo in al telefono con un compagno dalla stazione di Paola, giusto? Sì, sì, alla stazione di Paola, è il nodo ferroviario principale per la Calabria. Ecco, appunto, quindi. E raccontaci un po' come è andata questa azione, come siete arrivati a organizzare questa cosa, insomma, oggi. Niente, praticamente è in corso in questo momento una protesta in solidarietà a quello che sta avvenendo in Valtusa, anche rispetto a quelle che sono state le aggressioni subite da ieri da tutti quanti i valsusini, chiaramente contro la costruzione della rete ad alta velocità della TAV. La stazione è occupata più o meno da tre quarti d'ora, è stato bloccato un Eurostar diretto da Roma e adesso stiamo bloccando un altro treno che viaggia in direzione Reggio Calabria. Siamo una cinquantina di attivisti che si stanno mobilitando anche qui contro la TAV per fare capire, qualora ce ne fosse bisogno, che questo movimento non è un movimento NIMBY, ma è qualcosa che riguarda tutta Italia. Come la rete ha twittato ieri più di una volta, quello che sta avvenendo in Valtusa è la piazza Tahir italiana. Pronto? Sì, sì, ti sento. Una domanda che ti voglio fare è se vi stanno lasciando tranquilli, insomma, perché ecco, un altro tema di questa lotta è stata anche la pesantissima repressione che si è vissuta. Sì, in questo momento la situazione è tranquilla, la protesta è completamente pacifica. Bene. Abbiamo riscontrato anche qualche solidarietà da parte dei passeggeri dei treni stessi durante lo svolgimento della protesta. Ah, beh, no, e che hanno dato la solidarietà. Sì, alcuni passeggeri hanno espresso solidarietà alla lotta contro la TAV. Meno male, ma questo è molto bello. Sappiamo anche che, per esempio, a Bologna, sui blocchi stradali, gli automobilisti facevano la stessa cosa. Allora io direi che insieme ci risentiamo tra breve, anche per aggiornarci su come sta andando il presidio, perché so che comunque, insomma, avremo altro da dirci. E allora ci rimandiamo più tardi. Grazie ancora. Va bene, più tardi. Ciao. Grazie anche a voi, ciao. Ciao. Ciao. Thank you.